Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 4 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Filippi. Capitolo 4 dell'Epistola di Paolo ai Filippesi, o come lui dice, a tutti i santi che sono in Cristo Gesù, che sono in Filippi, coi vescovi e coi diaconi. Questo scrive l'Apostolo Paolo all'inizio della sua epistola. Ebbene, così è scritto. Capitolo 4 di Filippesi, dal versetto 4. Rallegratevi del continuo nel Signore, da capo dico rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Sono pienamente convinto che tutto quello che l'Apostolo Paolo diceva ai santi di allora o alle chiese di allora di fare, deve essere detto alle chiese ancora oggi, perché quello che ha scritto l'Apostolo Paolo è la parola di Dio, la parola che è proceduta da Dio, e noi sappiamo che la parola di Dio è vivente, è permanente. Molti continuano a ripetere, ma i tempi sono cambiati, molti evangelici. I tempi sono cambiati, fratello. E che significa? Lo sappiamo bene che i tempi sono cambiati e cambiano sempre in peggio. Ma la parola di Dio non cambia. La parola di Dio è chiamata vivente, permanente, è viva, non muore mai. E poi permane nei secoli, nei millenni. La parola di Dio. Già la stessa dicitura, parola di Dio, fa capire da chi è proceduta la parola, dalla bocca di Dio, dalla bocca di colui che è l'Eterno, di Dio Altissimo, colui che esiste da sempre, capite? E che esisterà per sempre, colui che ha creato tutte le cose, per la sua volontà sono venute all'esistenza, quello che noi vediamo oggi, il sole, la luna, le stelle, il cielo, la terra, i mari, i fiumi, i laghi, gli alberi, gli animali, i pesci, insomma. La lista è lunghissima. Sono tutte cose che sono venute all'esistenza per volontà di Dio. Non è che sono venute all'esistenza perché miliardi di anni fa c'è stato un Big Bang, cioè una grande esplosione, e da questa grande esplosione è venuto fuori tutto quello che noi vediamo. Credere a una cosa del genere veramente è, diciamo, follia, semplicemente follia, solo dei folli possono credere a una cosa del genere. È una menzogna enorme che è stata generata dal diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. La scrittura dice: degno sei, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. e si ricordi questo, che tutti lo ricordino e ce l'abbiano ben impresso nella mente, che per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, cioè il Dio ha creato tutte le cose non da cose che esistevano, ossia il cielo, la terra, capite? Cioè lui parlò e la cosa fu. Quindi i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Poi certo Dio ha fatto l'uomo come l'ha fatto? Dalla polvere. Infatti poi vedete che l'uomo torna alla polvere. E la donna come l'ha fatta? L'ha fatta da una costola dell'uomo. Quindi vedete, tutte le cose sono riconducibili a Dio, perché lui è il creatore di tutte le cose. Ora, quando noi leggiamo le epistole, ho fatto l'esempio naturalmente delle epistole di Paolo, le epistole di Paolo sono parola di Dio, che ne dicano i soliti contenziosi, ignoranti, scellerati, che vogliono che tante cose che ha scritto l'apostolo Paolo siano relegate all'antichità, alle antiche chiese, o meglio, al primo secolo dopo Cristo, perché non gli stanno bene, non gradiscono tante parti del consiglio di Dio. Non le gradiscono, sono avversi alla sana dottrina. Diceva bene l'apostolo Paolo a Timoteo quando gli disse: predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Disse proprio bene. Questo è proprio il tempo in cui non sopportano la sana dottrina, non sopportano la parola di Dio, perché la sana dottrina è la parola di Dio, che va dunque predicata. Bisogna insistere, a tempo e fuori di tempo. Coloro che sono preposti nel Signore lo devono fare, riprendere, sgridare, esortare, con grande pazienza e sempre istruendo, perché viviamo in un tempo in cui molti che si definiscono cristiani hanno preso la sana dottrina e se la sono gettata dietro le spalle e si sono messi a seguire cianciatori, ribelli e seduttori di menti, gente che non sa discernere la destra dalla sinistra, una pecora dalla capra, un vero ministro di Dio da un falso ministro. C'è gente veramente in giro, veramente di una tale ignoranza spaventosa. Quando parlano sono uno spavento, non capiscono niente. Se tu gli metti davanti a queste persone un fiore vero e un fiore finto, sapete i fiori di plastica, loro, vi posso assicurare, sceglieranno come fiore vero quello di plastica, non quello vero, no, quello di plastica, perché sta gente è così. Poi si offendono quando vengono chiamati dementi, ma i dementi sono quelli che sono privi di senno, e questi sono privi di senno. Non riescono a discernere il vero dal falso, il bene dal male. Non ci riescono, perché non hanno la mente di Cristo. Hanno una mente corrotta, sapete? La Bibbia parla di uomini corrotti di mente, privati della verità. Sono corrotti di mente perché sono corrotti dentro. Hanno una coscienza contaminata, hanno un cuore marcio, corrotto. Ecco perché la loro mente anche è corrotta, e quando la mente è corrotta, vi posso assicurare, potete pure conoscere degli insegnamenti che avete sentito da qualcuno, potete anche scrivere talvolta qualcosa di giusto biblicamente, ma vi posso assicurare che chi ha la mente corrotta è un uomo malvagio privato della verità, che quando voi conoscete personalmente vi rendete conto di quello che dice la Sacra Scrittura, e che la Sacra Scrittura non sbaglia mai. Ma sapete quanti uomini corrotti di mente, privati della verità, scrivono libri? Libroni anche, su Dio, su Gesù, anche libri teologici, ma sono uomini corrotti di mente, privati della verità, i quali appunto non sopportano la sana dottrina, non sopportano la parola di Dio, e infatti ci perseguitano, ci odiano, ci disprezzano, ci calunniano. Sono questi i nemici della croce, che si mascherano, da cristiani, però sapete, poi le maschere il Signore le fa cadere, e quando le fa cadere sono dolori, sono dolori per i mascherati, o meglio per gli smascherati, per quelli che vengono smascherati da Dio. Grazie a Dio veramente che il Signore ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù, veramente noi gli siamo grati al Signore, perché lui è l'Eterno degli eserciti che combatte per noi, e noi naturalmente combattiamo per lui, a differenza dei malvagi che lottano contro di lui, noi lottiamo per il Signore. Infatti lottiamo strenuamente per la fede degli eletti di Dio, lottiamo per l'Evangelo, lottiamo per la grazia. Invece quelli che lottano contro Dio, lottano contro l'Evangelo, lottano contro la grazia, contro la fede, d'altronde lottano contro Dio. Scellerati! Allora, fratelli del Signore, la parola di Dio è verità, e questo appunto che ho letto è parola di Dio. Rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico, rallegratevi, ci dobbiamo rallegrare, dobbiamo essere sempre allegri. Beh, il Signore ci ha dato tanti motivi per rallegrarci, Tanti motivi per rallegrarci. Il primo fra tutti è questo, che i nostri nomi sono scritti nei cieli. Nei cieli. Dico e ripeto, nei cieli. C'è un libro nei cieli, che è il libro della vita dell'agnello, nel quale sono scritti i nostri nomi sin dalla fondazione del mondo. Gesù disse a quei 70 che aveva mandato davanti a sé, in ogni città e luogo dove egli stesse per andare, gli disse pure: non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E non è questo un motivo sufficiente per rallegrarsi? È come se è sufficiente come motivo, Basta sapere solo questo, basta solo questo per farci veramente saltare di gioia, farci giubilare di gioia del continuo, fratelli nel Signore, sapere che i nostri nomi sono scritti nei cieli. E qualcuno allora li ha scritti. E chi li ha scritti? Li ha scritti l'Iddio della gloria, L'Iddio della gloria, il nostro Padre celeste, Pensate un po' voi da quanto tempo sono scritti i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello, Erano scritti ancora, i nostri nomi erano già scritti quando veramente gli uomini non esistevano. D'altronde, il Dio ci ha eletti in Cristo a salvezza prima della fondazione del mondo. Rendetevi conto. Rendetevi conto dunque da quanto tempo i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Poi dobbiamo sentire, soprattutto il giorno quando ci sono i battesimi in tante comunità: fratello, il Signore oggi ha scritto il tuo nome nel libro della vita. Oh, che litania! A sentire questo veramente ogni volta mi viene una rabbia, perché dico: ma possibile che questi sono rimasti veramente ancora ancorati a questa menzogna? Cioè, credono che quando uno viene battezzato in acqua il Signore si mette a scrivere il suo nome nel libro della vita dell'agnello? Ma ci rendiamo conto l'ignoranza che veramente regna in tante comunità, a partire da quelli che si definiscono pastori, che hanno il tesserino di pastori, ma sono veramente degli ignoranti, ma degli ignoranti, profondamente ignoranti della parola di Dio, che invece di leggere la parola di leggere le scritture leggono i commentari, e che dicono delle cose assurde che non esistono nella Bibbia. Tante volte uno dice, ma com'è possibile che questi dicono delle cose che non sono assolutamente scritte nella Bibbia? Perché leggono commentari, leggono le prediche di altri e allora poi se le tramandano, no? Di padre in figlio, anche perché poi voi sapete che il pastorato è diventato, diciamo, qualcosa che si tramanda da padre in figlio. Il pastorato, sì, il loro pastorato, non quello stabilito da Dio, non il ministero che viene dato da Dio, perché questi sono dei burocrati, questi qua appunto messi in queste denominazioni sono uomini al servizio di Cesare, non al servizio del Signore della Gloria, sono messi lì appunto da uomini costituiti, pastori da uomini, hanno diciamo un riconoscimento giuridico da parte dello Stato, sono riconosciuti dallo Stato, ma non sono riconosciuti da Dio. Dio riconosce come suoi ministri quelli che lui stabilisce come suoi ministri, non quelli che vengono appunto stabiliti dalla massoneria, perché naturalmente la massoneria dice quelli che devono essere stabiliti come ministri di culto. E alla fine è così, alla fine è così. Comunque noi ci rallegriamo nel Signore perché i nostri nomi sono scritti nei cieli, ossia nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. E noi siamo grati al Signore perché riconosciamo in questo l'amore di Dio, ma anche la sua grazia. Per quello che noi, quando ci rallegriamo perché i nostri nomi sono scritti nei cieli, noi diamo gloria a Dio per la sua grazia e per il suo amore, perché Egli ci ha amati il primo e perché Egli ha voluto farci grazia. Sì, Lui ha voluto farci grazia. D'altronde disse a Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Non sei stato dunque tu che hai voluto essere graziato, ma è Dio che ha voluto graziarti, farti grazia. Ricordatelo sempre questo, vai, investiga le scritture e troverai veramente quello che dice il Signore. Lui ti ha voluto fare grazia, quindi glorifica il Signore, celebralo, magnificalo per la sua grazia, come naturalmente anche per il suo amore, perché Egli ci ha amato il primo. Non è che noi abbiamo amato il Signore per prima, no, Lui ci ha amato il primo. Quando noi non amavamo il Signore, Lui ci amava e poi naturalmente ci ha salvati. Vedete di quale amore c'è stato largo il Padre dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio, Di quale amore, fratelli nel Signore, quale amore Dio ha manifestato verso di noi. Ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo affinché per mezzo di lui noi vivessimo. L'ha mandato per essere la propiziazione per i nostri peccati. Ah, quale amore il Signore appunto a noi che eravamo figlioli di ira, come tutti gli altri per natura, il Signore ci ha rigenerati, ci ha fatto diventare i suoi figlioli, ha mandato il suo spirito nei nostri cuori per il quale gridiamo Abba Padre. Sì, ci rallegriamo nel Signore perché Egli ha scritto i nostri nomi nei cieli. Ecco perché noi quindi siamo oggi sulla via della salvezza. Ecco perché noi oggi siamo dei credenti. Perché il Signore della gloria ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. E quindi camminando su questa via, andando di forza in forza, vogliamo veramente rallegrarci nel Signore della gloria, in colui che veramente ci ha chiamati alla sua eterna gloria. Quindi rallegriamoci, fratelli del Signore, la gioia del Signore è appunto la nostra forza. Certo, c'è un momento anche per piangere, Infatti la Bibbia dice anche di piangere con quelli, no? Che piangono. Sì, c'è anche un tempo per piangere. È giusto che sia così, è giusto che sia così, dice Paolo ai santi di Corinto, dice così, dice, se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Quindi, voglio dire, e quando si soffre si è afflitti. E poi dice ai santi di Roma, infatti, queste parole al capitolo 12 dice: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. È chiaro che quando muore qualcuno, noi naturalmente facciamo cordoglio, piangiamo con quelli che piangono, Poi naturalmente, certamente, ci rallegriamo con quelli che sono allegri, però ricordiamoci anche di piangere con quelli che piangono, perché sapete, ci sono quelli che magari parlano del rallegrarci, del continuo, però si dimenticano anche di dire che c'è anche un tempo per piangere, c'è un tempo per piangere con quelli che piangono, e ci sono quelli che piangono, la scrittura ce lo dice. E dunque, fratelli nel Signore, rallegriamoci nel Signore, perché i nostri nomi sono scritti nei cieli, Non perché sono scritti in qualche registro di chiesa, o su qualche diploma. Sapete che adesso quando ci sono i battesimi viene rilasciato il diploma, adesso c'è pure il diploma del battesimo. Comunque, cose veramente, stanno succedendo delle cose veramente, che ormai da un po' di anni però è questo fatto del diploma, è un, diciamo, un, come si dice, un, una piccola, no, un pezzo di cartone, qualcosa del genere, no? Su cui c'è scritto proprio nome e cognome, il giorno del battesimo, adesso rilasciano pure il certificato, va? Il certificato battesimale, chiamiamolo così, no? Poi va bene, le persone vengono iscritte nel registro di chiesa, perché sapete che quando uno viene battezzato, in acqua, nelle denominazioni riconosciute dallo Stato, quello viene inserito poi nel registro di chiesa, diventa un membro comunicante, cioè tutti hanno lo statuto che non finisce più, per così dire, dove appunto viene detto quali sono i doveri e i diritti dei membri comunicanti, ma non mi voglio dilungare perché veramente, cioè sennò qui non finirei più, ma comunque sta di fatto che molti sono contentissimi di essere iscritti nel registro appunto della propria chiesa denominazionale, capite? Io vi confesso che a me non mi interessa proprio niente, perché cioè, di questa iscrizione a suo tempo fui iscritto pure io naturalmente all'inizio, parliamo di tanti e tanti anni fa, però veramente a pensarci adesso dico io, ma come si fa? I nostri nomi sono scritti nei cieli, però molti, sapete, molti si rallegrano perché il loro nome è stato scritto in un registro di chiesa. Cioè oggi veramente a tanti viene proprio tenuto nascosto, a tanti credenti, perché io credo che ci siano dei veri credenti nelle varie denominazioni, il Signore conosce quelli che sono suoi. Ai credenti viene nascosto in queste denominazioni proprio questo, che i loro nomi sono scritti nei cieli sin dalla fondazione del mondo, anche perché molte chiese non credono nella predestinazione, non credono nel proponimento della versione di Dio, Quindi figuriamoci, gli vanno a dire che il Signore ha scritto il loro nome il giorno del battesimo, è il giorno del battesimo in cui gli lasciano il certificato battesimale, e lì tutti gioiosi perché sono entrati a far parte, come membri comunicanti della Chiesa. Rallegriamoci nel Signore perché il Signore ha scritto i nostri nomi, fratelli, nel libro della vita dell'agnello. Che meraviglia questo libro, eh? Che cosa meravigliosa veramente sapere che il nostro nome è scritto in questo libro. Quindi rallegriamoci, fratelli. Poi dice la scrittura: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Quindi noi dobbiamo essere mansueti. Mansueti come lo era Gesù, perché voi sapete che Gesù disse: io sono mansueto ed umile di cuore. Quindi, come esempio di mansuetudine, dobbiamo prendere Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Vi ricordo che a proposito della mansuetudine c'è scritto che i mansueti sono beati. Sì, lo sappiamo, i mansueti vengono definiti un po' gente stupidotta oggi, no? Però diciamo che associata ai mansueti c'è una beatitudine. Infatti Gesù ha detto queste parole: beati i mansueti perché essi erederanno la terra, la nuova terra naturalmente, no? Perché sapete che Dio crea nuovi cieli e nuova terra nei quali abiterà la giustizia. Allora, è chiaro, fratelli, che noi dobbiamo essere mansueti, eh? Quindi non dobbiamo essere litigiosi, rissosi, violenti, assolutamente. Noi dobbiamo essere mansueti. L'Apostolo Paolo, a proposito della mansuetudine, scrivendo a Tito, ha detto queste parole. Ascoltate, perché sono delle parole molto interessanti. Dice a Tito: ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati, sto leggendo dal capitolo 3, e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male ad alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. Notate che non siano contenziosi, noi non dobbiamo essere litigiosi, non dobbiamo essere litigiosi. C'è gente che vuole litigare con noi e noi non ci litighiamo, perché noi non siamo contenziosi. C'è gente a cui piace litigare, si dicono cristiani, vogliono del continuo litigare, sono contenziosi, sono pieni, hanno uno spirito di contenzione. Oltre che invidia, invidia e contenzione camminano assieme. E dove ci sono invidia e contenzione, lì c'è disordine, ogni malazione. E difatti nella vita dei contenziosi c'è disordine ed ogni malazione. Vedete che cosa dice quindi la Sacra Scrittura? Dobbiamo essere ubbidienti. Allora, intanto, dice che dobbiamo essere soggetti ai magistrati e alle autorità. Poi dobbiamo essere ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, quindi dobbiamo fare del bene a tutti, principalmente, secondo che ne abbiamo l'opportunità, principalmente alla famiglia dei credenti. Non dobbiamo dire male ad alcuno, perché non dobbiamo essere maldicenti, Non dobbiamo essere maldicenti, dobbiamo bandire la menzogna. Dio odia, anzi ha in abominio, la lingua bugiarda ed anche il falso testimonio, quindi gli orecchi da udire oda. Che non siano contenziosi, non dobbiamo essere litigiosi, Dobbiamo essere benigni, quindi buoni, dobbiamo essere. Fare del bene a noi stessi e anche al nostro prossimo. E dobbiamo, appunto, mostrare ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. Vedete? L'Apostolo Paolo torna sulla mansuetudine, anche qua. Dobbiamo mostrare ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. La gente deve dire, di ognuno di noi, guarda com'è mansueto, guarda com'è mansueta. È certo. Perché noi dobbiamo somigliare al nostro Signore Gesù Cristo. Poi la cosa che colpisce è il seguito anche di queste parole dell'Apostolo Paolo, perché dice il perché. perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi, odiantici gli uni gli altri. Vedete? Cos'eravamo una volta, un tempo? Anche noi eravamo così. A proposito, avete notato che Paolo si include? Anche noi eravamo, pensate, lui, fariseo, molto attaccato alla tradizione dei padri, molto zelante, no? Per la tradizione, infatti perseguitava la Chiesa di Dio, e come dice anche, perché quanto allo zelo dice era persecutore della Chiesa, notate che quanto alla giustizia che nella legge era irreprensibile, però guardate dove si include. Avete notato cosa dice? D'altronde lui stesso dirà, perché questo è sempre bene ricordarlo, queste parole, certe questa parola è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Quindi vedete, lui chiaramente ha detto che quando era sotto la legge era un peccatore. Quantunque, in base quanto alla giustizia che è nella legge, era irreprensibile. Però vedete, era un peccatore. Anzi, come lui stesso sempre dice, era un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore. Sì, proprio così. Dunque, noi un tempo eravamo anche noi, insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli altri. Allora, se eravamo una volta, vuol dire che non lo siamo più, giusto? Paolo ha detto, anche noi eravamo una volta, quindi non siamo più insensati, non siamo più ribelli, non siamo più traviati, non siamo più servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. E perché non lo siamo più? Perché non lo siamo più? Perché il Dio ci ha salvati. Infatti dice l'Apostolo Paolo, proseguendo, ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Avete allora compreso, fratelli? Perché il Signore ci ha salvati secondo la sua misericordia, non per opere giuste che noi avessimo fatto. Ecco perché noi non siamo più insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Ma riflettiamo, consideriamo le nostre vie, ma vi rendete conto quello che noi eravamo una volta? Facciamo questo paragone di noi oggi con quello che eravamo una volta. Cioè, oggi siamo luce nel Signore, una volta eravamo tenebre, oggi siamo giusti, una volta eravamo degli empi. Una volta eravamo servi del peccato, adesso siamo servi della giustizia. Fratelli, la salvezza è grande, la salvezza che noi abbiamo ricevuto. Su questo bisogna insistere. Molti non sanno nemmeno cosa significa essere salvati. Non lo sanno in molte comunità, perché non gli viene spiegato in cosa consiste la salvezza, questa così grande salvezza che Cristo Gesù è venuto nel mondo a portare e che ci ha procurato morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Vedete dunque, fratelli, da servi del peccato il Signore ci ha fatto diventare servi della giustizia. Quale grazia! dice bene Paolo, non per opere giuste che noi avessimo fatto. Già, proprio così. E così è tolto il vanto. Ogni vanto, infatti noi ci gloriamo nel Signore, non è in virtù d'opera affinché nessuno si glori, e infatti noi non ci gloriamo. Ci gloriamo nel Signore, non di noi stessi, perché noi siamo stati salvati, non perché, diciamo, avevamo fatto qualche opera giusta, qualche opera buona, no, ma secondo la misericordia di Dio. Perché Dio ha voluto farci misericordia, non è forse scritto che il Signore fa misericordia a chi vuole. E quindi il Signore ci ha voluto fare misericordia, quindi ci ha salvati secondo la sua misericordia. Attenzione, perché la vostra lo dice anche mediante che cosa? Il lavacro della rigenerazione, il rinnovamento dello Spirito Santo, da tenere presente. Il lavacro, il lavaggio della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, sì, perché appunto c'è stato un lavacro, diciamo, nella nostra vita, che è avvenuto mediante la rigenerazione. Quando noi siamo stati rigenerati, siamo stati lavati, lavati nel prezioso sangue dell'agnello. E poi il rinnovamento dello Spirito Santo, perché noi siamo stati rinnovati, fatti nuovi per opera dello Spirito Santo. E dunque vedete, mediante la parola di verità siamo stati rigenerati e mediante lo Spirito Santo rinnovati. Siamo nati di nuovo, siamo nati dall'alto e per questo siamo grati a Dio. Siamo grati a Dio. E dunque, continuando nell'esporvi, nello spiegarvi le parole di Paolo ai santi di Filippo, andiamo avanti. Il Signore è vicino. Già, il Signore è vicino. Non è lontano da noi, eh? Il Signore è vicino. Il Signore è vicino a quelli che hanno un cuore rotto. Meraviglioso sapere veramente che il Signore ci è vicino, fratelli. Sapete, tante volte ci sono delle persone che ci abbandonano, no? Sapete, Paolo disse, tutti mi hanno abbandonato, in una circostanza disse così, però il Signore era stato con lui, era rimasto con lui al suo fianco. Allora noi sappiamo che il Signore è vicino a noi, la scrittura lo dice, l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito contrito. Il Signore è vicino a quelli che, fratelli, tremano davanti alla sua parola. Il Signore non è lontano da noi. Non è lontano da noi, non è lontano da noi, fratelli, il Signore è vicino a noi che l'invochiamo. Infatti quando noi invochiamo il Signore, sentiamo che il Signore è vicino a noi. Questo non significa che il Signore risponderà immediatamente quando lo invochiamo, però ci risponderà con le sue potenti liberazioni, a suo tempo. Ma ci risponderà, perché Lui è fedele. Quindi il Signore è vicino e ci protegge, ci guarda, ci guida, va davanti a noi, ci prepara la strada, ci guarda anche le spalle, perché abbiamo bisogno sempre del Signore che ci guardi le spalle, perché sapete che c'è sempre qualcuno, comunque sia, che ha le spalle trama contro di noi, però il Signore è la nostra avanguardia, la nostra retroguardia, quindi noi camminiamo tranquilli. Perché anche se non vediamo chi ci sta dietro a noi, il Signore ci pensa Lui a guardare e ci protegge. Dobbiamo stare attenti, fratelli, perché al popolo di Dio si uniscono gente con finti sembianti, che non aspettano altro che pugnalarti alle spalle, farti del male. Però il Signore è vicino a noi e il Signore ci protegge, ci libera dagli uccellatori, che sapete ci sono gli uccellatori, e allora dobbiamo essere grati al Signore veramente, il Signore rompe il laccio degli uccellatori e ci fa scampare, ci sono quelli che ci tendono tranelli, trappole, fratelli, ci sono, state attenti, si presentano come cristiani, E allora ci tendono tranelli, trappole di ogni genere. E il Signore ci scampa dai loro lacci, dai loro tranelli. E poi sapete che fa il Signore? Gli tende delle trappole e ci fa cascare loro. Ci fa cascare loro nelle trappole che hanno fatto per noi, oh, o nelle fosse che hanno scavato per noi, il Signore ce le fa cadere a loro. Poi li vedi in fondo alla fossa che hanno scavato, Li vedi là, sono là, in fondo alla fossa, In fondo alla fossa a scrivere i post in modalità job, va, diciamo, usiamo questa espressione, Sono giusto, temo il Dio, sono provato, ma che provato è provato, tu sei castigato, sei in fondo alla fossa. In fondo alla fossa che avevi scavato per il giusto, ti ritrovi là perché sei malvagio, stolto, bugiardo, calunniatore, tramatore di ogni sorta di macchinazione contro i giusti. Ecco perché ti vediamo là in fondo alla fossa che tu hai scavato, o empio, dalla lingua biforcuta, che ami ogni parola che cagiona distruzione. Tu sei là perché? Perché c'è una legge scritta, che chi scava una fossa vi cadrà dentro. Probabilmente non la conoscevi, o se la conoscevi magari hai pensato che non ti riguardava. No, no, riguarda tutti quelli che scavano le fosse per i giusti, e tu sei là, nella fossa, dove aspetti appunto di discendere nel soggiorno dei morti, perché a te, empio, quello che ti aspetta è il soggiorno dei morti, perché là discendono gli empi. E dunque, fratelli nel Signore, il Signore è vicino, noi siamo, gli siamo grati. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, quindi un comandamento, non ci dobbiamo preoccupare, Non ci dobbiamo preoccupare del domani, Non ci dobbiamo preoccupare del domani, fratelli del Signore, di quello che mangeremo, di quello che berremo. Il Signore è vicino, il Signore ha cura di noi. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, come ha detto il Signore, ha detto queste cose. Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra, di quello che mangerete o di quello che berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento? È il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono i granai, il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai più di loro? E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere la sua statura pure un cubito? E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna, e se non faticano e non filano. Eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. O se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è, domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi, o gente di poca fede? Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, perché il domani sarà il sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Ho letto dal capitolo 6 di Matteo. Dunque, non dobbiamo essere solleciti di cosa alcuna, Di cosa alcuna, perché il Signore è vicino, fratelli. Il Signore ha cura di noi. Il Signore sa le cose di cui noi abbiamo bisogno, Le sa. E allora qualcuno dirà, ma allora perché dobbiamo pregare? Perché Dio ce l'ha ordinato. Dice, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. Ma attenzione, prima che gliele chiediate, Questo sottintende che quando noi gliele chiediamo, il Signore già le sa, però gliele dobbiamo chiedere. Infatti Gesù cosa ha detto? Chiedete e vi sarà dato. È un comandamento quello di chiedere, Non è mica facoltativo, non è una cosa facoltativa, Cercate e troverete, picchiatevi sarà aperto. Non le ha dette Gesù queste parole? Sì, le ha dette lui. Quindi, allora, lo ripeto, chiedete e vi sarà dato. È un comandamento? Oh, cercate e troverete. Quindi anche cercare è un comandamento. Picchiare, picchiare naturalmente alla porta, eh? No, perché sapete, picchiate qualcuno, sapete, ci sono anche quelli che picchiano con le mani, altri credenti, ci sono persone manesche, sapete, anzi alcune volte anche con le sedie, prendono le sedie e se le tirano in testa. Ho sentito storie veramente allucinanti, sconcertanti, chiese dove si sono presi con le sedie, asseggiate, dicono, no? Hanno dovuto chiamare i carabinieri, ma voi ci pensate un momento? Chiamano i carabinieri in una comunità evangelica perché si sono presi con le sedie in testa. Succede pure questo, c'è una violenza in certe comunità, soprattutto in certe zone. In certe zone. Allora chiedetevi sarà dato, cercate e troverete, picchiatevi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Quindi chiediamo al Signore, chiediamo con fede, perché la scrittura dice tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. Naturalmente dobbiamo anche chiedere in accordo con la sua volontà, ma le cose di cui abbiamo bisogno, sono secondo la volontà di Dio, quindi noi sappiamo di avere le cose che gli chiediamo, le cose che gli chiediamo, appunto, quando appunto sono cose di cui noi abbiamo bisogno. Che il Signore, naturalmente, come ho detto, conosce prima che noi gliele chiediamo. Talvolta è accaduto che il Signore ci ha esaudito ancora prima che noi gli chiedessimo una determinata cosa. Avviene anche questo, Avviene anche questo. E questo sapete che cosa appunto ci conferma? Che Dio sa tutto. La parola non è ancora sulla nostra lingua, colui già la conosce appieno. Lui intende da lungi il nostro pensiero. Pensate un po' voi, prima che ancora noi formuliamo la nostra preghiera davanti a Lui, Lui già sa quello che noi gli chiederemo. La grandezza di Dio. Ma sai, ero sul punto di chiedere a Dio quella cosa e il Signore me l'ha data. Com'è possibile? È possibile. È possibile perché il nostro Dio è grande. La sua grandezza non si può investigare. Beato l'uomo che confida in Lui. Allora non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna. Ma d'altronde, con un Dio grande così, che è l'unico vero Iddio, ma voglio dire, ma di che cos'è che ci dobbiamo preoccupare? Ma di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Lui che governa l'universo. Lui che sta assiso sul globo della Terra, la Terra non è piatta, ricordatevelo, non sia mai che viene qualcuno a casa vostra e vi dice, ma sai che la Terra è piatta? Guardate, ammonitelo, riprendetelo e cacciatelo via, perché uno che ci viene a dire che la Terra è piatta, ma non è degno di considerazione, ma che ci viene a dire? Ci viene a raccontare favole, oppure ci sono alcuni che credono alle favole. Appena arrivano i terrapiattisti, sono tutti orecchie. Poi gli dici la verità? No, non ti ascoltano, non ti vogliono nemmeno sentire. Però quando arriva qualcuno che gli annuncia il terrapiattismo, subito si precipitano come se il terrapiattismo fosse una rivelazione di Dio degli ultimi tempi. Ma è veramente una menzogna clamorosa, quale rivelazione di Dio? Quindi, il Dio sta assiso sul globo della Terra, fratelli. Il cielo è il suo trono, la Terra è lo sgabello dei suoi piedi. Ma vi rendete conto chi è il nostro Dio? Vi rendete conto chi è il nostro Dio? Il nostro Dio è più grande di tutti. Nessuno è pari a Lui. Nessuno. Quando vedo queste processioni veramente dove portano su quel baldacchino, no, un idolo che rappresenta Maria, Gennaro, Antonio e così via, no? Ma mi viene da ridere. Ma com'è possibile? Vanno in delirio per gli spauracchi dei loro idoli. Che hanno veramente bocca e non parlano, hanno orecchie e non sentono, hanno le gambe ma non camminano, devono portarli, e come li portano? Poi ogni tanto cadono e si sentono grida di disperazione quando cadono questi idoli, grida di disperazione, ma sono idoli muti, ravvedetevi, convertitevi, idolatri! Allora vi stavo dicendo, no? Quando vedo queste processioni, ma io dico, ma guarda chi seguono questi, nella loro cecità e ignoranza, gli idoli muti! E invece noi crediamo nell'Iddio vivente e vero, che è il solo vero Dio. Per la sua grazia, attenzione, perché anche noi un giorno eravamo sulla via della perdizione, non ci dimentichiamo queste cose qua. Però dico io, quanto è grande il nostro Dio, e questi vanno dietro gli idoli, dei pezzi di gesso, dei pezzi di pietra, di marmo, di ferro, ma ci rendiamo conto? E li pregano pure, li invocano, si prostrano, alcuni si fanno anche delle incisioni addosso, si fanno sgorgare il sangue, follia dopo follia, ma noi veramente, il nostro Dio è l'Iddio vivente e vero, per la sua ira trema la terra, e chi può reggere dinanzi al suo sdegno? Ma quali idoli e idoli, eh? Ma quali idoli e idoli, al bando gli idoli, al bando l'idolatria, che è un'opera della carne, noi aboriamo gli idoli, noi adoriamo il Dio in spirito e verità. Allora stavo dicendo, chi è il nostro Dio che è vicino a noi, ma il nostro Dio è il creatore di tutte le cose, e quindi non dobbiamo essere con ansietà sollecite cosa alcuna, perché il Signore ha cura di noi. Questo dobbiamo sempre tenerlo a mente, fratelli. Il Signore ha cura di noi e non è sbadato il Signore. Non è che si perde un dettaglio della nostra vita. No. Il Signore ha cura di noi in ogni nostro dettaglio. Ma dice infatti la scrittura, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. Qualcuno potrebbe dire, ma in ogni cosa significa proprio in ogni cosa. Sì, guarda, ti faccio un esempio. Se c'hai, per esempio, che ti posso dire io, bisogno un paio di scarpe, prega Dio per quel paio di scarpe. Capito? No, perché ci sono alcuni che dicono, vabbè, ma Dio bisogna invocarlo mica per le cose piccole, bisogna invocarlo per le cose grosse. Come dire, sai, non è che puoi pregare il Signore quando c'è un mal di testa, ma no, se c'è un cancro, se c'è un tumore, allora sì, ma mal di testa, no, io invoco il Signore anche quando c'è un mal di testa, affinché il Signore mi guarisca dal mal di testa, altro che in ogni cosa sono le vostre richieste rese note a Dio in preghiera, supplicazione e orazione di grazie. Ma lo sapete che ci sono alcuni pastori, che veramente prendono quelli che si rifugiano nel Signore anche, diciamo, quando veramente hanno un'influenza o una febbre, che li vedono naturalmente o sentono che pregano Dio, come persone che disturbano Dio, ma Dio non si sente assolutamente disturbato da chi lo invoca quando c'ha l'influenza, quando c'ha la febbre e gli chiede di guarirlo. No, fratelli nel Signore, anzi Dio si compiace in coloro che hanno fiducia in Lui e gli chiedono di guarirla anche da un'influenza e da una febbre. Ma questi non hanno fede in Dio. Hanno fede nella cosiddetta deascienza. La scienza è diventata una divinità per loro. E infatti si è visto, quando è venuta la cosiddetta pandemia, tutti dietro il cosiddetto vaccino. Ve lo ricordate? Noi che mettevamo in guardia, non fatevi inserire il siero sperimentale nel vostro corpo. Non fatelo! Confidate nel Signore, vi proteggerà da qualsiasi virus, da qualsiasi malattia. E invece molti, purtroppo si sono fatti il siero sperimentale. E mi ricordo che addirittura c'era tra gli evangelici chi pregava a Dio per il vaccino. Ma che preghiera è? E poi mediante quel vaccino tanti sono morti, tanti si sono ammalati, hanno avuto degli effetti collaterali terribili. E poi si lamentano, sapete, oggi tanti evangelici dopo la cosiddetta pandemia non vanno più nei locali di culto. E ci credo che non ci vanno più. Cosa ci vanno a fare? A sentire le predicazioni di Davide contro Goliath, che vinse Goliath con una fionda, una pietra, e poi davanti a un virus, ammesso che quel virus proprio fosse quello che loro dicono loro, sono scappati tutti dalla paura. Addirittura mi ricordo non si potevano salutare più con il santo bacio nelle chiese, non si è mai, è arrivato il virus, tutti, c'era un fuggi, la paura generale, vergogna, dov'è la fede in Dio? C'era la fiducia in una divinità, la scienza, era diventata una divinità. Ma noi non dimentichiamo queste cose, razza di ipocriti, e poi vi presentate sul pulpito a predicare Davide contro Goliath, paurosi, codardi, siete scappati davanti a un virus, non davanti a un gigante alto 3 metri, no, ma che? O 2 metri e qualcosa, no, davanti a un virus davanti a qualcosa di invisibile. Pensate un po' voi quanta fede ci avete, quanto coraggio ci avete, razza di ipocriti, ma voi vi dovete ravvedere e convertire. Voi non siete convertiti, voi che avete pregato per Dio per un vaccino, voi, ma vi dovete vergognare. Ma come fate a definirvi? Ma come fate a definirvi servi di Dio? Come fate? Ma non vi vergognate, impostori che non siete altro. Ma ormai tanti hanno capito chi siete. La cosiddetta pandemia è servita a fare vedere chi siete. Gente che non ha fede in Dio. E poi facevano gli studi biblici sulla preghiera. Vi ricordate gli studi biblici che facevano sulla preghiera? E poi sono scappati davanti a un virus. E poi, se ti presentavi al locale di culto senza mascherina, ti cacciavano via. A mascherina. A mascherina bisognava averla, sul muso. Il velo potevi anche non mettertelo quando pregavi, vero? Mi rivolgo naturalmente alle sorelle. Certo, il velo, cosa vuoi? Era per quel tempo. Ma la mascherina tutti la dovevano avere. Cantare con la mascherina, addirittura c'erano quelli che predicavano con la mascherina, ma ci rendiamo conto, che fede, ipocriti, fate ridere, siete lo zimbello, siete una barzelletta, addirittura predicavano con, c'erano quelli che testimoniavano della grandezza di Dio con la mascherina sulla bocca, ma ci rendiamo conto, quelli che predicavano la parola di Dio con la mascherina sulle, io me le ricordo queste cose, sono scene indimenticabili, vergognose, sconcertanti, e poi erano quelli che facevano gli studi biblici sulla preghiera, sulla fede in Dio, e che bombardavano ogni volta, una domenica sì, e fosse una domenica ancora un'altra, con Davide che vince Goliath, ma sì, predicate di Davide che vinse Goliath con una fionda e una pietra, ma sì, ma Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, ma Davide era un uomo che aveva fiducia in Dio, non nella scienza di allora, non nella forza dell'uomo, nella potenza dell'uomo, aveva fede in Dio, infatti vinse Goliath perché ebbe fede, invece voi che avete avuto paura, voi avete avuto incredulità e siete scappati, ma erano scappati, lette, avete capito cosa significa scappare? Ecco, questi scapparono, è una cosa impressionante. Ma io non dimentico queste cose, le ricorderò quando avrò occasione, perché questi sono degli ipocriti, questi sono usciti dalle scuole bibliche o antibibliche, come le definisco io, perché effettivamente parlano contro la Bibbia in queste scuole bibliche, sono usciti da una scuola biblica, gli hanno dato un tesserino, hanno fatto un tirocinio di qualche tempo, li hanno messi dietro un pulpito, ma questi qua non sanno cosa significa avere fede in Dio, Questi qua hanno fiducia nell'uomo, nella sapienza dell'uomo, nella potenza dell'uomo, nella scienza cosiddetta. Avete capito in chi hanno fede? Infatti, dalle loro prediche che cosa si evince? Che non hanno fede in Dio. Dunque non siate con ansietà sulle leggi di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste, che sono da Dio in preghiera e supplicazione, con azioni di grazie. Quindi qualsiasi cosa di cui noi abbiamo bisogno, fratelli del Signore, sappiamo a chi rivolgerci in preghiera e supplicazione. Con fede, con azione di grazie. Ringraziamo sempre il Signore, perseveriamo naturalmente nella preghiera, ringraziando il Signore, perché il Signore Dio è degno di ricevere azione di grazie. E l'Apostolo Paolo dice: è la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Che meraviglia! Questa espressione è qualcosa di meraviglioso, veramente, perché è proprio così. E chi prega il Dio con fede, rivolgendosi a Lui per ogni suo bisogno, lo sa che è così, che la pace di Dio regna nel suo cuore, è una pace grande, profonda, che non puoi nemmeno spiegare, è una pace che sopravanza ogni intelligenza, che supera ogni intelligenza, questa pace meravigliosa che la pace di Dio protegge il nostro cuore, la nostra mente in Cristo Gesù, cioè i nostri cuori, i nostri pensieri in Cristo Gesù. Notate, è la pace di Dio che protegge i nostri cuori, i nostri pensieri in Cristo Gesù, fratelli. che protezione. Ecco perché poi in mezzo alla distretta noi appunto stiamo calmi, fiduciosi, perché la pace di Dio guarda i nostri cuori, i nostri pensieri in Cristo Gesù. E poi naturalmente quando vediamo il Signore poi esaudire le nostre preghiere, le nostre supplicazioni, noi naturalmente ci rallegriamo, perché anche questo è motivo per rallegrarci. Non vi pare? Se io prego per ottenere una cosa, quando quella cosa il Signore me la dà, ma io mi rallegro, voglio dire, sbandiero la cosa, appena ne ho l'opportunità, faccio conoscere alla fratellanza, quello che il Signore ha fatto per l'anima mia, l'ho invocato e Lui mi ha risposto. Non ha disdegnato la mia preghiera, l'ha accolta e dalla sua santa dimora a suo tempo mi ha esaudito. E per questo io mi rallegro nel Signore e lo ringrazio e lo celebro e lo magnifico. Quindi poi quando il Signore ci risponde, noi lo glorifichiamo. Infatti vedete cosa ha detto il Signore? Invocami nel dì della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Quindi quando noi preghiamo il Dio, l'Iddio delle liberazioni, quando lo preghiamo, quando siamo nel bisogno, poi quando il Signore ci risponde e ci tira fuori da quel bisogno, da quella distretta, noi che facciamo? Noi lo glorifichiamo, perché Lui è degno di essere glorificato. Quindi, fratelli nel Signore, conservate questa mia esortazione, ritenetela, perché vi farà del bene, perché la parola di Dio ci fa del bene. La parola di Dio non ci fa del male, la parola di Dio ci fa del bene. Dio procaccia il nostro bene, non il nostro male. Ricordatevi, la faccia del Signore non è contro quelli che fanno il bene, ma è contro quelli che fanno il male. Quindi perseveriamo nel fare il bene e avremo il favore di Dio. E quando lo invocheremo, Egli dal cielo della sua santità ci risponderà e noi diremo grazie a Dio. Glorificato sia il suo santo nome. Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. Certo, è anche vero che molti non hanno voluto né rimanere calmi e né rimanere fiduciosi nel Signore, peggio per loro. Però a quelli che stanno calmi e fiduciosi nel Signore, sappiate che voi ne avrete del bene, perché il Signore vi onorerà. Sì, vi onorerà. Vi onorerà davanti a tutti, perché avete riposto la vostra fiducia nell'Iddio vivente e vero. Rendendo le vostre richieste, note a Lui in preghiera e supplicazione, con azione di grazie, nel segreto. Nel segreto. E il Signore vi risponde in maniera palese. Vi onora. Il Signore onora quelli che lo onorano, quelli che lo pregano nel segreto, senza sbandierare le preghiere che fanno. Senza sbandierare le preghiere che fanno, poi il Signore li esaudisce davanti a tutti, perché li ricompensa. Sì, il Signore nostro è, come dice, il remuneratore di quelli che lo cercano. Cercate il Signore, invocatelo, e il Signore è il remuneratore di quelli che lo cercano, e li remunera davanti a tutti. Facciamo dunque quello che il Signore ci ha comandato di fare e saremo beati. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che l'amano con purità incorrotta. Amen.